Radio Cervano presenta Sportivamente Parlando, un programma ideato e condotto in studio da Federico Di Fabio. Buonasera, buonasera ai nostri gentili spettatori e benvenuti al secondo appuntamento di Sportivamente Parlando. Per questa prima parte parleremo di calcio a 5. Iniziamo a parlare di calcio a 5, forse con una delle persone migliori in questo momento del panorama calcettistico. Adriano, il presidente, avvocato, presidente onorario dell'Atria Team. Buonasera Giuseppe Matriciani. Buonasera a tutti, un saluto a tutti gli radioascoltatori. Abbiamo qui invece un giocatore, sempre dell'Atria Team, uno delle colonne, anche se da poco in squadra, Lorenzo Rompicapo. Buonasera a tutti. Allora presidente, io partirei in ordine dalle categorie un po' in alto. Partirei con la C1 che entrambi avete calcato. Tu presidente anche da presidente e lui da giocatore, ricordiamo l'anno 2013-2014, non dico male, giusto, mi confermi, sì, con sì, sì. Pablito D'Ambrosio all'Audax Adria, certo. La stagione è finita con la sconfitta nei playoff con la Real Dem. Sì, con la Real Dem. Con la Real Dem di Junior, che era molto più quotata della squadra della Triana. Allora io partirei subito con i risultati, così presidente poi passiamo a roba nostrana, quindi... Partiamo subito con i risultati allora della C1. Della C1, allora, c'è un attimo un problema. Eccoci qua. Andiamo ripescando i risultati. Intanto presidente, una piccola battuta su questa la categoria a cui aspirate. La stagione si sta andando bene. Non possiamo nasconderci, alla fine la stagione non sta andando malissimo. Magari si aspettava un qualcosina in più, però alla fine tutto sommato gli obiettivi sono ancora arrivabili. Beh sì, la stagione è ancora aperta, voglio dire, vincere il primo giorno di campionato non è mai facile. Noi siamo in corsa, siamo in piena zona playoff, era quello che ci eravamo prefissati a inizio stagione, quindi adesso sarà un finale tutto da vivere. Insomma, siamo lì, mancano due gare al termine. Siamo terzi in classifica e quindi con il sogno ci sarà a divertirsi, insomma. Con il sogno C1 andiamo a leggere appunto i risultati della C1: All Game San Salvo Sports Center 4-4, San Buceto Atletico Silvi 4-2, Devils Chieti Free Time L'Aquila 5-3, Eschieti La Fenice 4-3, Minerva Montesilvano 3-2, Oriona Vezzano Lisciani Teramo 6-1, Padovani Area L'Aquila 3-4. Leggiamo velocemente la classifica: Devil Futsal Chieti ormai stravinto il campionato a quota 68 punti, San Buceto 51, Sport Center 50, Oriona Vezzano 43, Montesilvano 35, 33 per il Lisciani Teramo, 32 per il Free Time L'Aquila, 31 per Antonio Padovani Futsal, 29 per Minerva e Area L'Aquila Futsal, 28 per l'Atletico Silvi, 24 per il Game San Salvo, la Fenice 15 e chiude l'Eschieti a 12 punti. Allora presidente, abbiamo detto il Devils Futsal Chieti che ha ormai chiuso le pratiche campionato, matematicamente già in Serie B, sta andando avanti in Coppa Italia sezione Abruzzo, che l'ha già vinta, stando avanti nella sezione nazionale. Una squadra, non so se hai seguito un po' il campionato di C1. Sì, ho seguito, il Davis ha fatto campionato a 6, insomma, dall'inizio non ha mai perso un colpo, anche se il San Buceto insomma era una squadra attrezzata con giocatori di livello, diversi ex poi, anche diversi ex, che hanno però calcato il palcoscenico atriano. Lo sport è bello anche per questo, perché non è mai una questione matematica, ecco, diciamo. Il Davis ha costruito una squadra rocciosa che alla fine le ha vinte tutte, non c'è stato spazio per nessuno. E, mi piace sottolineare in questo campionato la presenza di un nostro atleta che gioca con l'Area Futsal, il grande Giorgini Gianluca, ex capitano dei nostri giovanili, che adesso sta lì, insomma, sta battagliando per conservare. Sicuramente bei ricordi anche per Lorenzo con Gianluca. Sì, un grande amico fuori e dentro il campo. Lorenzo, tu hai giocato con molti degli atleti come presidente del San Buceto, molti che hanno fatto anche la Serie B, ti aspettavi questo exploit del Chieti? Beh, guarda, sicuramente sulla carta a inizio campionato il San Buceto era una delle più forti da battere. Poi però, come diceva prima il presidente, il calcio, lo sport in generale è bello anche per questo, perché poi ci sono sempre continue sorprese e niente. Parliamo anche del Silvi, che è una delle nostre conterranee, visto che parliamo di terra del Cerrano. Il Silvi fa parte di questo comprensorio. sembrava una stagione destinata addirittura a un qualcosa di peggiore. Sono ancora in zona playout, però sono a qualche punto dalla salvezza. Presidente, non so se avete bei rapporti con la società di Silvia, anche Silvia ha diversi ex come Giulio Calista. No, no, noi abbiamo buoni rapporti con Silvi, come con tutte le realtà sportive, insomma, vicine, sia del calcio a 5 che degli altri sport. Ma io credo alla fine, ecco, senza essere un ciò del Magliaguri, sono convinto che il Silvi riuscirà a salvarsi, perché la squadra sostanzialmente è di livello e quindi in questa ultima parte riuscirà, secondo me, a tirarsi fuori da questa zona playoff e si salverà tranquillamente, anche perché lì c'è il grande capitano Calista, insomma, che qui ad Atria ha scritto pagine importanti di calcio a 5, che gli aiuterà a tirarsi fuori in pratica. Sì, anche perché a Lorenzo avete fatto un amichevole, se non sbaglio, nelle vacanze invernali, sì, se mi confermi, quindi hanno dimostrato di essere una squadra di qualità. Sì, sì, ma sicuramente hanno giocatori di esperienza, conosco tanti giocatori, ho giocato anche con un certo Alexis Ortega, ho giocato con Fabio... con Giulio Calista, è una squadra che sicuramente ha tanta esperienza e quindi penso che la salvezza sia sicuramente di misura per la squadra e per i giocatori. Allora Presidente, per tua felicità possiamo passare al girone A di C2, quindi arriviamo diciamo a questioni nostrane. Allora vado subito a leggere i risultati, anche se il primo risultato che leggo qui in lista forse non mi piacerà. San Vincenzo Atria Team 6-4, la lotta per le zone nobili della classifica. Poi c'è Nero Stellati Magnifica 3-10, con il Magnifica che si avvicina passo passo a vincere questo campionato, anche se solamente un punto quelli che è di distanza, anche se c'è da dire che il Virtus San Vincenzo deve ancora riposare una partita, quindi diciamo che hanno la partita chiave per allungare il Magnificat, ma ne parleremo dopo. Giulianova Città di Teramo 4-1, Sportmania Sulmona 6-4, Nobel Boys Tagliacozzo 7-2, ha riposato il calcetto Avezzano. Abbiamo detto che il Magnificat ha la palla chiave per andare a più 4, visto che il San Vincenzo riposerà, mancano soltanto due partite. Secondo te, Presidente, ce la faranno a fine campionato? Ma io penso di sì, che diciamo che la lotta per il primo posto sia appannaggio il Magnificat, hanno il calendario dalla loro parte, ecco, il San Vincenzo che la seconda deve recuperare, però ecco, anche qui la caratura della squadra non pone pochi dubbi, insomma, ci sono giocatori che hanno giocato in Serie B, in Serie A, di calcio a 5, e quindi secondo me meritatamente vinceranno questo campionato. Da parte nostra, ecco, noi ci toccherà lottare ben volentieri per questi playoff, speriamo di spuntarla, insomma, poi non ci poniamo limiti, la squadra è stata costruita per raggiungere questo obiettivo, quindi noi siamo dal punto di vista societario soddisfatti di quello che abbiamo fatto, perché ecco, come primo anno diciamo di tra virgolette di rifondazione di questa nuova società che si è creata, l'obiettivo era quello di arrivare tra i primi posti e giocarsela fino in fondo. Poi se riusciremo a spuntarla con i playoff, bene, se no vorrà dire che ci riprepareremo per il prossimo anno per cercare di fare ancora meglio, insomma. Diciamo che questo sogno playoff si è acceso sempre più dopo l'avvicendamento in panchina. Sono arrivati il duo De Flavis Narcisi, hanno portato, se mi correggete, 5 vittorie su 7 gare. Sì, credo di sì. 5 su 7. Le uniche due sconfitte sono state con le prime due della classe, quindi assolutamente non opinabili al lavorato della... Però ecco, se mi consenti, io in ogni caso un ringraziamento lo farei anche a mister Trisciuoglio, insomma, che ha portato avanti un buon lavoro e poi purtroppo ecco, nello sport contano i risultati e voglio dire, lui ce l'ha messa tutta e quando poi i risultati non arrivano una società deve prendere delle decisioni per dare una scossa, ecco. La scossa che ha dato bene la squadra. La scossa Lorenzo ha dato buoni frutti e ci ha detto bene, anche perché poi sia De Flavis che Narcisi, insomma, conoscevano l'ambiente, conoscono la categoria e quindi sono riusciti a fare bene, ecco, diciamo. Ha fatto bene quindi Lorenzo questa scossa. Sì, sicuramente, anche perché De Flavis è stato anche allenatore di molti di noi già nelle giovanili, quindi già conoscevamo il suo modo di lavorare, la sua grinta E poi devo dire che anche tutto il resto della squadra si è messa a disposizione del mister, lavorando giorno dopo giorno con cuore, grinta e quel pizzico di passione, siamo arrivati a dei buoni risultati. Lo possiamo dire, forse De Flavis è il Gattuso del calcio a 5, ovviamente con i dovuti... Eh sì, credo di sì, il Gattuso pelato. Ma... Allora Presidente, la classifica, come detto, è buona, non si può precludere nessun obiettivo per questa Adria Team. Se andrete ai playoff, con quale mentalità lo farete? Mentalità vincente oppure una mentalità da una squadra che va lì per provare e magari se arriva al salto di qualità? No, vabbè, noi andiamo per giocarcela, anche perché voglio dire, la rosa è, diciamo, può lottare per vincere questi playoff. Ecco, noi nelle ultime gare abbiamo avuto un po' di difficoltà con qualche infortunato, problemi vari, insomma, di qualche atleta che ha avuto delle difficoltà, si è allenato poco e quindi, ecco, siamo arrivati anche a questa sfida con il San Vincenzo con una rosa ristretta. Io spero che per la fine della stagione riusciremo a recuperare tutti e per giocarcela al meglio, poi sarà il campo a decidere, noi ce la metteremo tutte, insomma. Sì, anche perché una rosa da 12 giocatori, tutti quanti competitivi in C2, magari è proprio un sogno che non un sogno di ogni allenatore, che però non è mai realizzabile, possiamo dire. Gli allenatori noi li conosciamo, insomma, poi tutti vorrebbero non 12 giocatori, ma 15 ne vorrebbero di livello. Però la nostra squadra, secondo me, è attrezzata e quindi riuscirà sicuramente anche con i componenti attuali a fare bella figura e a giocarsela. Beh, sicuramente, Lorenzo, perché poi se andiamo ad analizzare giocatore per giocatore, siete molto giovani, una squadra molto giovane. Sei tu che sei il 96, Marconi, Angelozzi il 97, Di Nardo il 96, c'è Di Sante, grande protagonista della Coppa Italia sezione Abruzzo, portato a casa, presidente del 2015, che è del 96, Nallira del 98, una squadra molto giovane, quindi si può migliorare piano piano e arrivare nel migliore dei modi ai playoff. Ma sì, sicuramente, per molti di noi è il primo anno da protagonisti in un campionato di C2. La squadra è giovane, ci sono alcuni innesti come Antimo De Patre, c'è stato comunque Dagno Traini, che comunque sono buoni giocatori e che hanno un'esperienza un po' più da noi. Però sì, le prospettive per il futuro sono sicuramente ottime e comunque c'è ancora questo campionato da finire e ce la giocheremo fino alla fine. Io, Presidente, vorrei analizzare un po' più questo avvicendamento in panchina. Si dice che comunque De Flavis e Narcisi hanno dato grinta e carica a una squadra che sembrava spenta, però dal punto di vista tattico e tecnico cosa ha cambiato questo avvicendamento? Ma prima di tutto, vabbè, i numeri parlano sempre, quindi basta vedere i risultati. È una squadra che adesso prende pochi gol, quindi ne deriva che molto probabilmente la fase difensiva viene fatta meglio, ci sarà più concentrazione, più impegno, ecco, molto probabilmente. Forse c'è stato anche un cambio di modulo, adesso io non sono un esperto di moduli tattici, però posso dire che la squadra sembra avere maggiore equilibrio e i numeri parlano chiaro, insomma abbiamo subito pochissimi gol in queste gare e riusciamo a portarli a termine. Prima sostanzialmente avevamo difficoltà anche a tenere il risultato, proprio una questione di equilibri, magari andavamo in vantaggio e poi subivamo il ritorno degli avversari. Adesso è una squadra più quadrata, a prescindere dalle due sconfitte con le prime della classe, però le altre partite posso dire che sono state dominate sostanzialmente, sia sul punto di vista del gioco che del risultato, e quindi diciamo che il duo ha fatto bene. Poi un duo che si integra benissimo, ce n'è uno che è più sanguigno e arcigno come il Gattuso, che hai definito tu, che è De Flavis, e un altro un po' più riflessivo che è Narciso, il gigante è buono che però quando serve, insomma, si fa sentire e di supporto alla squadra, quindi un bel mix che ha fatto bene, insomma, alla squadra, a tutto l'ambiente. Anche perché il mister precedente si lamentava magari della mancanza di un difensore centrale, un centrale difensivo. Con l'arrivo di De Flavis si è adattato Lorenzo, sì. Tu da centrale difensivo hai avuto molte gioie in passato, ricordiamo quella con l'Acquestapone. Sì, sicuramente. Sì, io ho iniziato questo sport partendo laterale. Poi vari allenatori hanno scorso in me un lato più difensivo e mi hanno messo dietro, insomma, la centrale. E De Flavis è uno di questi, e infatti la prima cosa che ha fatto appena arrivato mi ha spostato dietro, poi abbiamo lavorato insomma sulla difesa più ecco, sull'equilibrio della squadra, e infatti molti dei risultati sono di misura, abbiamo vinto anche partite 1-2-0, però riportando i 3 punti a casa. Eh sì, Presidente, vorrei uscire un po' dall'ottica campionato e vorrei parlare un più del settore, di più del settore giovanile. Sei protagonista negli ultimi anni, molti anni, del calcio a 5 a Triano. Sei il vero portavoce dell'Atri 2020, questo progetto che stai portando avanti insieme ad altri illustri nostri concittadini come Claudio Petraccia. Senti, un piccolo commento sul progetto che sta andando a compiere dai numeri. Ti ringrazio per i complimenti, ma naturalmente non è solo merito mio, è un merito di tutto il gruppo, insomma. Questo è un progetto che abbiamo ideato 3-4 anni fa, insomma, fondamentalmente di partire con questo progetto Atri 2020, cui il fulcro di questa attività sono attività ludico-sportive per i bimbi piccoli a partire dai 3 anni, fondamentalmente. E questo poi ci ha dato la spinta per andare avanti e di proseguire e poi di far sfociare questo progetto nella scuola calcio e nella quella che chiamiamo noi la Futsal Academy. Sono attività che ci danno molta soddisfazione, perché poi sono improntate alla totale gratuità delle attività, quindi i bambini non hanno alcuna spesa da affrontare, e quest'anno siamo partiti con le prime attività della scuola calcio, quindi i primi calci, piccoli amici. Il merito va diviso con tutti. Tu parlavi del vicepresidente Petraccia, naturalmente del presidente De Eusebio e di tutto il gruppo societario attuale, Enzo Assogna, Dagno Traini, che è la doppia veste di giocatore e dirigente fondamentalmente. Poi c'è tutto lo staff tecnico, a parte quello della prima squadra, e anche del settore giovanile, insomma, che il responsabile è il grande Danilo De Ridolfo, il quale cura tutta la, insomma, sicuramente l'avremo come ospite, ce ne abbiamo parlato. E poi ci sono tanti altri istruttori, c'è Olga Del Rocino, c'è questo mix anche di allenatori che diciamo provengono dalle file dell'Atricalcio. Poi Giampiero l'abbiamo avuto, infatti, come per noi ci onoriamo, insomma, della collaborazione di Reitano, che cura i bimbi un po' più grandi. Insomma, questo progetto va bene, ci dà tante soddisfazioni, anche perché le soddisfazioni arrivano anche da una fonte statistica. Il boom di iscrizioni quest'anno è stato, sì, appunto un boom. È stato un boom che ci ha messo un po' in difficoltà, perché poi gratuità e boom di iscrizioni significano costi maggiori. Noi però ci prendiamo carico volentieri di questo onere, perché rende il nostro progetto diverso, non dico migliore dagli altri, però sicuramente è un progetto che ha uno sviluppo che parte dal sociale, fondamentalmente. Quindi noi ci prefissiamo di offrire sport gratuito a tutti, quindi anche quei bimbi che magari non potrebbero permettersi la retta della tradizionale scuola calcio. Il tutto però condito dalla professionalità dei tecnici, perché noi abbiamo tecnici che sono tutti tecnici abilitati FIGC, abbiamo una psicologa che segue i bimbi, abbiamo una nutrizionista, insomma cerchiamo di dare il meglio a questi bambini. E questo vi fa onore, anche perché appunto a novembre abbiamo avuto un disastro calcistico nella nostra nazione, anche il calcio a 5 è uscito ai gironi dell'Europeo, quindi bisogna ripartire anche e soprattutto nel settore giovanile delle società un po' più piccole. Beh sì, ma poi voglio dire, non è che bisogna fare voli pindarici, cioè lo sport poi è una cosa semplice secondo me, quindi bisogna avere un progetto che abbia una visione pluriennale, delle idee chiare di come svilupparlo, e poi ecco, se c'è risposta, bene, poi ognuno sceglierà le varie attività che preferisce. Ecco, noi nel progetto Atri 2020, riservate più piccoli, insomma, facciamo svolgere anche, diciamo, lo sport a 360 gradi, quindi i bimbi possono provare a praticare il tennis. Abbiamo fatto dei corsi di equitazione, il maggio è il mese dedicato alla piscina per questi bimbi. Quindi ecco, cerchiamo di avvicinare allo sport, non solo allo sport, diciamo, tra virgolette, coi piedi, quindi che sia il calcio a 5, il calcio a 11 o altro, ma proprio per farli conoscere lo sport in generale. Per far assaporare quindi lo sport puro. Lo sport è il fatto dello stare insieme, insomma. Quindi io sono cresciuto facendo attività sportiva Penso che sia un bene per ogni bimbo crescere in questo modo, insomma, praticare sport e tenere lontano anche da, da problematiche che possono poi uscire fuori dal, quando crescono sostanzialmente. Quindi chiamiamole un po' di deviazioni, ecco. Quindi, sì, sì, sicuramente. Con la società, magari con l'aiuto del gruppo, magari si possono anche avere delle scappatoie dai problemi della vita, appunto, come hai detto bene. Però tu, presidente, diciamo che la tua passione per il calcio a 5, per lo sport in generale, è partita da moltissimi anni. Ci puoi un po' fare un sunto della tua vita, della tua carriera nel calcio e calcio a 5? Diciamo, nello sport, ecco. Approfitto, penso, per ringraziare chi mi ha avvicinato allo sport in generale, che è il professor Antonio Di Muciano, il quale mi ha avvicinato a questo sport. Lui mi vide giocare, insomma, per strada con alcuni amici, mi disse: perché non vieni a provare a giocare al campo? E io ben volentieri, da lì, insomma, avevo 10-11 anni, è partita la mia attività sportiva. Ho sempre giocato a calcio, quasi in tutte le categorie, ho militato in quasi tutte le squadre del comprensorio adriano, diciamo, scarsi risultati, però, insomma, ecco, diciamo. E si è ripreso dalla carriera del presidente, alla fine. Però, ecco, lì. Lo sport devo molto, perché mi ha permesso di conoscere molte persone, di creare delle amicizie, e quindi di avere un legame forte con il territorio pure, quindi con Atri. Adesso a breve avremo il mister Di Marzio, un altro rappresentante del Real Treciminiere. Non so se vi siete mai confrontati con la realtà del Treciminiere, ma comunque sapere che non solo voi date soddisfazioni all'Atria Sportiva, ma mi fa sicuramente onore, mi fa sicuramente piacere. Beh, col Treciminiere è la squadra che mi ha riportato a giocare quando militava in terza categoria. Io ho smesso di giocare, e poi con l'attuale presidente, che era anche il presidente d'allora, Fabio Di Febo, mi contattò, c'era Mirko Di Basilico, insomma, tutte persone che adesso sono nella società del Treciminiere. Ripartimmo con questa categoria e io ho iniziato a giocare lì, insomma. Sono stato anche per un anno capitano del Treciminiere in terza categoria. Sto scoprendo lati nuovi. Sì, sì, e per quanto riguarda quello che hanno fatto, è qualcosa di straordinario, perché poi arrivare in promozione partendo da una terza, insomma, e conservando sempre il nucleo storico che hanno avuto, è qualcosa di straordinario, perché le vittorie vincendo lo sport non è mai facile. Poi, per quanto riguarda Di Marzio, io mi ricordo lui quando arrivò ad Atri, io ero ragazzino e lo guardavo, io ero in panchina e lui giocava, il bomber Di Marzio, e quindi l'ho conosciuto e degli ottimi ricordi, e quindi so il suo valore, e quello che sta facendo è merito suo e del gruppo dirigenziale, insomma, che lo assiste. Quindi, Presidente, ci ha parlato di un lato che mi appare nuovo, il lato da calciatore, Giuseppe Matriciani. Il lato da presidente è molto più roseo, hai avuto molte soddisfazioni nell'arco degli anni, soprattutto a livello giovanile. E poi non dimentichiamo la vittoria della Coppa Italia di C1 sezione Abruzzo, e anche tantissime altre soddisfazioni. Quindi, non so, magari vuoi fare un zoom, perché la carriera, se iniziassi a parlare, magari la carriera è molto rosa e molto lunga, quindi no, finiremo domani di mattina. Di carriera sportiva, no, vabbè, appena ho smesso l'attività sportiva, poi mi sono dedicato, insomma, agli aspetti societari. Ecco, sono sempre stato dentro associazioni che hanno fatto sport, che hanno cercato di sviluppare certi discorsi sportivi. Per quanto riguarda le soddisfazioni maggiori, sì, Lorenzo ha contribuito a darmene una indirettamente, perché quando lui è diventato campione d'Italia junior, se non sbaglio, insomma, quella vittoria un pezzetto l'ho sentita anche mia, insomma, anche nostra, che lui è un nostro tesserato, e quindi ha portato, insomma, in alto i colori atriani. E poi hai detto bene tu, la vittoria della Coppa Italia, Lorenzo era in campo insieme a tanti altri giovani, anche perché il rigore decisivo da Marcone fu tirato e fu parato, perché ovviamente sì, se vabbè, si azzecca uno si deve sbagliare dall'altra parte. Fu parato da Michael Di Sante, quindi beh, tutti, sì, Michael, tutti poi prodotti del vivaio atriano. Michael, diciamo, ci dà gioie e dolori, perché ha grosse potenzialità e inespresse, secondo me, per il momento, perché poi fisicamente non si è curato molto negli ultimi anni, però quando è giornata, insomma, è una saracinesca, che è difficile superarlo. Anche quest'anno lo ha dimostrato. Speriamo che in questa ultima parte di campionato ci faccia divertire. A te, Lorenzo, abbiamo parlato prima di settore giovanile. Il settore giovanile ha portato molte soddisfazioni. Prima con l'acquisto Pone Calcio a 5, sei diventato campione d'Italia, come ha detto il presidente. Poi con la finale, lo spareggio scudetto, possiamo dirlo così, scudetto abruzzese, sì, con il Pescara, perso nel 2013-2014 con l'Atria. Quindi possiamo dire che le giovanili a te hanno portato molte soddisfazioni. Sì, sì, sicuramente, anche perché io poi non ho iniziato proprio da piccolino, avevo già 14 anni abbondanti, e iniziai con sotto l'impero della Gymnasium con Matriciani, e poi andai subito l'anno dopo all'Acquestapone, e da lì iniziai, feci il campionato allievi e poi anche quello juniores, dove, come diceva il presidente, abbiamo avuto la fortuna, grazie anche al mister Luca D'Eugenio, di vincere lo scudetto. Poi ho fatto un altro anno lì e poi sono tornato qui, fino a quello spareggio di cui parlavi prima. E poi comunque ci sono stati sempre altri campionati dove non abbiamo demeritato, fino ad arrivare ad ora, che, come ripeto, è la prima esperienza in una prima squadra. Sì, perché sono arrivate anche le prime presenze in Serie B, che è un campionato nazionale. Sì, campionato di C1, avete fatto anche delle belle presenze, sia tu che Angelozzi. Sì. Lo stesso di Sante, quindi diciamo che sei riuscito a cogliere l'importanza che un settore giovanile dà all'istruzione di non solo di un calciatore, ma anche della persona. Sì, sicuramente. Sul trascorso non mi posso lamentare, è andato tutto bene, cioè, ho avuto la fortuna di capitare sempre in campionati buoni. L'anno scorso c'è stata la possibilità di provare a fare la B, quindi per ora è andato tutto bene, speriamo ancora meglio nel futuro. Presidente, abbiamo parlato di progetti giovanili, ma sono progetti che sono, diciamo, stanno per bollire nell'acqua, oppure no, ci teniamo stretti i progetti che sono ancora attuati? Ma guarda, il progetto della scuola calcio gratuita è quello che adesso ci tiene più impegnati e che naturalmente assorbe più risorse. Naturalmente noi non ci precludiamo nessun discorso, perché poi diciamo le risorse sono importantissime. Noi siamo aperti a qualsiasi tipo di collaborazione, parliamo con molte società anche vicine, per capire se ci possa essere una sorta di collaborazione per crescere e per far camminare meglio questo progetto. Naturalmente, ecco, l'ambizione di tirare su un bel settore giovanile. Siamo arrivati a quasi 80 iscritti e insomma, quindi anche la gestione inizia a essere impegnativa, quindi noi guardiamo con favore a tutte le associazioni che sono vicino e magari se in futuro ci potrà essere una collaborazione, noi siamo i primi ad aprire le braccia, insomma, ad accogliere qualsiasi persona, anche perché poi ci sono società che hanno delle ottime prime squadre, però ecco, non hanno un settore giovanile. Noi l'abbiamo per quanto riguarda il calcio, diciamo, tradizionale. Sì, anche perché quindi, più si va avanti e più si vuole, c'è la necessità di un settore giovanile, anche perché sia dal punto di vista sportivo, sia perché è una regola che è attuata la FIGC, quindi ogni squadra deve avere un settore giovanile. Noi ad esempio abbiamo anche parecchi juniores, alcuni di buon livello, ecco, ne faccio un nome, uno, insomma, c'è anche un conflitto di interessi perché è mio cugino, Emanuele Di Febbo, che adesso è in forza all'Atricalcio, insomma un 2000, un ottimo calciatore che viene anche dal passato del calcio a 5, nel quale è migliorato tantissimo fisicamente, secondo me è un ragazzo pronto che potrebbe già giocare in promozione, ecco, la butto lì, non per sponsorizzare questo ragazzo. E così come ce ne sono altri, noi abbiamo una decina di juniores che attualmente sono in forza con l'Atricalcio, che hanno, insomma, aiutato a costruire questa juniores, però ecco, è giusto che questi ragazzi abbiano la possibilità poi di misurarsi con le varie opportunità che ci sono in giro. Quindi magari stai facendo un assist al Real Trecciminiere, che avremo tra poco ospite con... No vabbè, ma io con l'amico Fabio parlo spesso, ci siamo sentiti. Per carità, noi non chiudiamo le porte a nessuno, noi attualmente abbiamo questa collaborazione con la Tricalcio, che però non è ancora sfociato in qualcosa di concreto sostanzialmente, quindi per il momento collaboriamo, siamo vicini, però l'auspicio, ecco, secondo me, di unire le forze diciamo tra più associazioni sarebbe auspicabile, per avere una struttura che sia forte e possa competere, che dire, secondo me un'ottima società organizzata bene è sempre quella del Pineto, cioè io se penso come a un futuro di un'associazione che mi vede da dentro, è che io vedo il Pineto come un'associazione da portare ad esempio, ecco, hanno un ottimo settore giovanile, hanno il responsabile che è Giovanni Natale, una persona molto esperta, fanno campionati regionali, quindi per le anche nazionali, anche nazionali, e quindi questo è poi questo sì, è sicuramente che... Comunque il Pineto è una chioccia, è la chioccia per lo sport adriano, che deve ripartire da, perché non si può vivere nel passato, possiamo dire chiaramente. Il passato adriano magari è stato molto roseo, soprattutto dal punto di vista del calcistico, perché noi più giovani siamo abituati, anche voi, noi più giovani, esempio Lorenzo, ma anche tu soprattutto, sei abituato a un'Atria ai livelli d'eccellenza, ai livelli di alta promozione. C'è stato un buio negli ultimi anni, c'è bisogno comunque di un progetto per ripartire. Beh sì, ci sono state difficoltà anche economiche, cioè voglio dire, le risorse che c'erano fino a 10 anni fa adesso non ci sono più, insomma, in queste categorie minori. Il Comune di Atria è ricco di associazioni sportive e non, anche il Calcio Atria ha una buona organizzazione, c'è il Trecciminiere, c'è il Caso, il Fontanelle, insomma, tutte realtà che però, ecco, curano tra virgolette come facciamo noi il proprio orticello, cioè, però se si vuole crescere è inevitabile secondo me cercare una convergenza per creare qualcosa di più forte, con numeri più grandi, insomma. Quindi Presidente, la stessa domanda che abbiamo fatto a Giabbio Reitano, nostro scorso ospite, la scorsa puntata: questo conflitto di interessi tra le società di Atri possiamo dire che sta portando, non dico ad una rovina del calcio atriano, però non sta portando ai frutti che magari si potevano prospettare all'inizio della vita di queste associazioni? Ma sì, no, questo è, non voglio dire una banalità, però è naturale che se si uniscono le forze e si va con delle spalle più robuste ad affrontare i campionati, tutto. A dire il vero, molte realtà sportive c'erano in passato e ci sono anche adesso. Secondo me quello che manca sono le risorse, fondamentalmente, perché poi i campionati di vertice ha bisogno di risorse, perché poi noi l'abbiamo visto, cioè per ben figurare in campionati, ecco, sia per esempio l'eccellenza, è difficile farli con ragazzi del posto, fondamentalmente. Anche la promozione, perché il Trecciminiere non conosco bene la realtà, diciamo, dei giocatori, però so che ha pescato non in un bacino comunale, ecco, mentre sia l'Atri Calcio che il Calcio Atri hanno diversi, insomma, ragazzi, sì, che sono atriani. Questo è un vanto, naturalmente avvicina più le persone al campo, però poi per vincere i campionati, per fare categorie superiori, o si ha dietro un settore giovanile che sforni ragazzi pronti per fare l'eccellenza o la promozione, oppure si deve pescare per forza fuori. E quindi parte, questa è la maggior responsabilità che ha Giuseppe Matriccioni insieme all'associazione dell'Atria Team, in collaborazione con l'Atria Calcio, ricordiamo. Quindi è maggiore responsabilità, perché bisogna sfornare nuovi talenti atriani. Beh vabbè, noi ci proviamo, però ecco, noi siamo agli albori, perché voglio dire, partiamo con le categorie più piccole, con ragazzi che hanno 5-6 anni, abbiamo dei buoni numeri, però ecco, per poter arrivare poi a tirar su dei giocatori ci vorranno anni, fondamentalmente. Siamo in chiusura, tra poco nella seconda parte di Sportivamente Parlando avremo come ospite Mister Di Marzio e Real Trecciminiere. Io ringrazio Lorenzo Rompicapo. Grazie a te, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Ringrazio il Presidente Onorario, l'Avvocato Giuseppe Matriciani. Un saluto a tutti e ringrazio Radio Cerrano Web, e la trasmissione è a te Federico, grazie. pregherei la regia di mandare uno stacco musicale. Radio Toronto, a web radio from Adriatic Coast, Abruzzi, Italy. This is Radio Toronto, a web radio from Adriatic Coast, Abruzzi, Italy. Bow your head. e stai ascoltando Radio Serrano Web. Allora, ecco, siamo qui pronti per la seconda parte di Sportivamente Parlando. Siamo qui con l'allenatore del Real Tre Ciminiere, mister Di Marzio, benvenuto. Grazie, grazie, buonasera a tutti. Allora, mister, possiamo parlare di calcio a 360 gradi, sei un grande conoscitore del calcio, appunto, del calcio giocato. Io partirei subito con la Serie D, che è la categoria più ambita del calcio dilettantistico. Mister, allora possiamo dire che i risultati non ci sono da dire, sono giusto un paio di partite che hanno recuperato, che le dico subito velocemente: sono Città di Campobasso 1-4, Castelfiardo Avezzano 1-1. Questo non si è giocato perché appunto c'è la rappresentativa della Serie D che è impegnata al torneo di Viareggio. Sì. C'è un ragazzo nostro conterraneo, non so se abbiamo avuto il piacere di conoscerlo di persona, Riccardo Della Quercia. Sì, sì, sì. Lui, mister, si sta riscoprendo un gran calciatore. Non so se hai avuto rapporti con il padre, Eraldo. Sì, sì, sì. Sicuramente Eraldo, l'amico Eraldo, sì. Persona squisita, peraltro, sembra appassionato di calcio. Ma io il ragazzino lo vedevo, se non altro, quando andavo giù al ristorante, quindi lo vedevo sempre là, l'ho seguito un po', i suoi trascorsi all'Angolare, adesso è andato a Pineto, ho avuto modo anche di vederlo. Fa piacere, perché un ragazzo di Adri, insomma, mi auguro possa ripetere le orme di qualche Adriano Doc anche più famoso, tipo Paolo Rachini, insomma, mi auguro che possa in un certo qual modo farsi la sua strada. Sicuramente questa è un'occasione importante, perché è una vetrina particolare che proietta questi ragazzi. Seppur da un campionato interregionale è sempre importante, però è una vetrina particolare perché è un torneo internazionale, magari per ambire a categorie più in alto. Sicuramente, anche perché poi il Pineto sta facendo un progetto intorno ai giovani, sta ampliando la forza del settore giovanile. Certo. Ha anche buoni rapporti con il Pescara Calcio, ma la cosa importante è che sta usando un parolone, ovviamente, sta facendo crescere i giocatori, i calciatori che sono del nostro del territorio. Del nostro territorio, nel nostro comprensorio, sì, sì, del Cerrano, quindi è un qualcosa che ci farà sicuramente piacere. Sì, sì, anche noi con le altre ciminiere abbiamo avuto una buona collaborazione, ci hanno dato qualche giocatore, cosiddetti qualche ragazzo giovane, che per noi sono stati molto importanti, abbiamo buoni rapporti. Beh, certo, insomma, Pineto da sempre ha rivestito un punto di riferimento per il territorio, seppure in qualche passaggio un po' così, come capita un po' a tutte le società, si è ritrovato a giocare magari in categorie un po' più basse, però adesso ha preso il passo giusto, ha creato una sinergia con anch'essa con il Pescara. Io ogni tanto mi fermo a vedere il sabato la Juniores che gioca allo stadio, devo dire che si respira una buona aria, giocatori validi, anche qualcuno locale, anzi molti locali, una buona aria, una struttura di tutto rispetto. Devo dire che Silvio Brocco, parlare delle persone è sempre un po', si rischia sempre di apparire un po', però è giusto rimarcare. Sì, magari parlare di chi fa del bene, sì, allo territorio, sì, perché è sempre bello. Altrimenti si rischia sempre per non essere quello che lo dice e le cose dopo non vengono dette. E invece bisogna dire che ha creato delle strutture importanti, ha rimesso a posto lo stadio giù il Giù dal Mare, veramente il campo del Santa Maria è veramente un fiore all'occhiello, cioè entri, c'è la vista di qualche cosa di bello. Ecco, io penso che il bello debba essere anche un obiettivo di una società che vuole fare calcio e che si vuole affacciare o che in un certo qual modo voglia primeggiare, perché fare le cose in una maniera bella sicuramente porta dei vantaggi, perché mio modesto parere, il calcio, lo sport in generale, ma le cose, se si possono fare, è bene farle con le cose belle, palloni buoni, scarpe buone, campo buono, struttura buona, di tutto viene di seguito. Cioè, anche se lo possiamo dire, magari Real Trecciniere sta facendo del bene, sta facendo, come tu, il bello, anche con risorse minori. Ma noi, Trecciminiere, hai detto bene, noi, sai, in queste occasioni, quando si ha la capacità di primeggiare un po', di essere un po' così, un po'... E allora subito si usano dei termini storici, straordinario, no? Io credo invece che sia giusto... Bello, noi stiamo cercando di portare avanti una cosa bella, e credo anche che chi viene a vedere le nostre partite, ma non è che io posso fare lo sponsor di noi stessi, non è questo il punto, però penso che... Anche se non sbaglieresti, mister. Abbiamo portato in giro, e tranne alcune occasioni abbiamo sempre ricevuto dei responsi positivi, cioè la gente, le persone che magari sono tanti anni che sono in queste categorie, Celano, Val di Sangro, e vedi Ortona, e vedi che quando giocano contro di te, caso di stessa ieri, hanno il giusto rispetto, perché sanno che di fronte hanno una società, una squadra che in un certo qual modo cerca di esprimere, ecco, tra virgolette, il bello. Noi è ovvio che abbiamo le risorse che abbiamo, e sai, la prima cosa che ho notato quando noi ci approcciamo a un giocatore nuovo, che per forza di cose non ci si conosce, o comunque si ha una conoscenza così per sentito dire, la prima cosa che noto è un po' lo stupore, un po' questa sorta di così, di titubanza, dice, ma questi chi sono? Perché magari un paesello di 347 anni. Qualche anno fa mi sono fermato a parlare con un amico mio che, bontà sua, aveva giocato categorie importanti, e allena pure, adesso allena, insomma, le categorie nostre. Io dicevo, lui mi dice, ma dove stai? Sto là. Dopo un po' ma là dove? Io troppo ho fatto a trovarvi, ma non vi ho ritrovato. effettivamente siamo piccoli, però bisogna dare atto alla società che in un modo un po' così, un po' a volte anche un po' particolare, però riusciamo a toccare le corde giuste. E io credo che, non voglio essere presuntuoso, ma un giocatore che, ma certo quelle toccate e fuga fanno diversa, è un discorso, però un giocatore che è stato con noi qualche anno, io credo che abbia aumentato il proprio bagaglio culturale, calcistico e sportivo, e possa veramente giocare dappertutto. Dico questo in che senso? Perché vedi, Francesco, il calcio non è solamente saper giocare con i piedi, quella è una qualità che bisogna avere, certo, se non sa giocare, però gran parte sono altre le cose, perché altrimenti sarebbe troppo semplice. Quindi di qui la motivazione, l'applicazione, la capacità di leggere le cose, la capacità di interpretare, la capacità di fare fatica, la capacità di andare oltre i propri limiti. E questo è quello che un po' a noi ci ha contraddistinto, altrimenti noi non avremmo avuto modo di esistere. Non è che sicuramente. Anche perché alla fine la serietà è quello che contraddistingue il Real Tre Ciminiere. Abbiamo avuto anche l'onore di parlare con Giambino Reitano, che è stato nostro ospite nella scorsa puntata. Con chiunque riusciamo a parlare del Real Tre Ciminiere, ci parlano di una realtà. Loro la prima parola che usano per descrivervi è serietà. Serietà, sì. Perché è questo forse che vi contraddistingue, la serietà che è partita dal progetto, sin dalla seconda categoria, che è ovviamente una società piccolissima come quella Real Tre Ciminiere, è dovuta partire per forza di cose proprio dal più basso, fino ad arrivare alla promozione, che si sta rivelando non solo un punto di passaggio per una squadra che magari mai nessuno si poteva aspettare un'ascesa del genere, però magari adesso questa promozione non se la tiene stretta, perché con la serietà si è capito che si può andare avanti, non solo con le risorse. Ma noi, è ovvio, ripeto, noi abbiamo la necessità di sfruttare tutte quelle che sono le nostre potenzialità, cioè noi non ci possiamo permettere di lasciare per strada questo o quel giocatore, o di percorrere strade che non ci appartengono e non ci possono appartenere. C'è bisogno di ottimizzare tutto, e allora ecco quando dicevo a volte appariamo un po' strane, perché a volte effettivamente, se uno ci vede anche un po' al campo, dice ma questi forse sono pochi, perché magari su una base di 18-19 giocatori magari ne abbiamo 3-4-5 che fanno il turno, che magari hanno esigenze, perché magari il ragazzo ha bisogno di lavorare, e quindi si innescano tutta una serie di meccanismi che fanno sì che probabilmente qui da noi riescano, dove magari altre squadre questo non sarebbe consentito. Però mi ha fatto piacere parlare con un giocatore nostro che è di provata esperienza, e mi ha detto: mister, io quando sono arrivato ho trovato un po' delle cose diverse rispetto a dove ero stato. Però dopo ho capito una cosa, ho capito che questa squadra la domenica va a giocare, cioè che i giocatori che formano questa squadra sanno che la domenica bisogna andare a giocare, e questa è una cosa importante, perché di fondo il fine ultimo, io credo, di ogni organizzazione calcistica, sportiva, è quella di fornire la prestazione, e i nostri giocatori, seppure magari a volte devono saltare un allenamento, sanno che la domenica bisogna andare a giocare. E non deve essere l'allenatore che deve stare là come un cane da caccia, però cioè è un qualche cosa che entra dentro di loro, e noi, a parte il campionato vinto l'anno scorso in maniera, diciamo, insomma, con tanti punti di vantaggio, in maniera netta sia giusta, anche perché mister poi con uomini di esperienza come esempio Clementoni, Merletti, cioè, questo diviene sicuramente tutto molto, molto più facile. Sì, allora io voglio cogliere l'occasione. Hai citato giocatori importanti del passato illustre, sicuramente Merletti ancora di più, che qua dimentichiamo che Gianni ha fatto tanti anni di professionismo di Serie C, ma a Sud, Catania, cioè, parliamo di giocatori. Cioè, nonostante i 43 a maggio. 43 anni è comunque un gatto, possiamo dire. Sì, e questo è io ho voluto Gianni perché al di là della bravura tecnica, perché io lo conoscevo, perché avesse un impatto di un certo tipo su quelli un po' più giovani. Perché sì, l'allenatore può dire, può parlare, può, però dopo è sempre il giocatore che riempie il campo. E quindi Gianni Merletti, Crementoni, Marotta è un giocatore immenso. È un giocatore che io ancora faccio fatica a capire come mai, perché sono tanti anni che gioca anche a categorie basse, me lo ricordo in una seconda categoria a Notaresco, ma che lui c'aveva ancora tipo 30 anni, 31 anni. Cioè di colpo ha fatto questo, ma Marotta è un giocatore, ecco, però come poteva essere l'anno scorso Fabio Sorricchio. E quindi questi sono i giocatori, no? Che subito vengono all'occhio. Però a me piace parlare anche di quelli che sono un po' più silenti, quelli che sono un po' più in secondo piano, ma che però rappresentano l'anima di questa squadra, che è Ivan Ferretti, Romano, Domenico, anche il capitano Ezio Brecciarolla, il capitano Daniele Di Felice, ma negli anni anche l'anno scorso Fabio Rutolo, adesso non ci sta più con noi, qualche anno prima D'Angelo, dopo Pinto, cioè tutti anche con la grande ricordo, sì, con se la... magari lui ha fatto un po' più una toccata e via, come sì, con la grande, però... un po' più da toccata e fuga è stata, però è sempre stato un giocatore con esperienza, che sì con esperienza, però qua l'esperienza se posso essere sdiano abbiamo visto poco di con la grande, però ma al di là di questo dico e quindi sono questi i ciaffoni. Lorenzo Assogno, guarda, allora mo senza scoprire troppo, ma noi abbiamo una rosa fatta di un certo tipo, in un certo modo. È ovvio che siamo andati, perché a volte io vedo le squadre, no? La gente si riempie la bocca. Sai, siamo andati a giocare sul Mona. Sul Mona aveva in panchina la Gatta, centravanti l'anno scorso con i Nero Stellati. Ha fatto tanti gol in eccesso. Sta in panchina, Pizzola, in mezzo al campo Gigli, De Cillis, Gizzi, Palombizio. Cioè, ma giocatori che... No, e noi non abbiamo attaccanti. Noi giochiamo senza attaccanti. E ci siamo dovuti inventare qualche cosa. Lorenzo Assogna, che magari all'inizio nessuno conosceva, ha fatto 10 gol. 10 gol giocando in un ruolo ibrido. Ecco, io penso che siano questi quelli che un po' unitamente, dicevo, è ovvio, cioè Crementoni, Merletti, Narotto. Sono questi giocatori che dopo però rappresentano lo zoccolo duro, lo zoccolo di quelli che vanno in campo ogni domenica e fanno la prestazione, che si stanno sempre ad allenare perché sanno che è il proprio limite, sanno che se non fanno questo loro non ci potrebbero stare. E invece dopo chi li vede dice, ma effettivamente io non pensavo, però dopo quando li vedi giocare, perché questa è questa forza che hanno dentro e che ci vogliono stare. E questo forse questa è il segreto nostro, che noi ci vogliamo stare, no? Come il calabrone che non lo sa che non può volare, sbatte le ali e vola, perché lui non lo sa, poco può essere, se rendesse conto andrebbe giù. Anche perché mister, abbiamo parlato di Assogna che si sta riscoprendo il vero top player del Tre Ciminiere. Sì. Io non so se sono ignorante o qualcosa dal punto di vista calcistico, ma l'ho conosciuto l'anno scorso, sì, nel campionato di prima, che ha dominato lui nel centrocampo, sì, nella tre quarti del Real, sì, ha dominato l'intero campionato, perché sì, è stato decisivo in moltissime, sì, partite con le sue perle, perché possiamo dire così, tutti i gol da fuori area. Sì, sì, sì. Quest'anno si sta ripetendo, ma oramai non è più una... No, ma io, guarda, devo dire una cosa. Il ragazzo, quando è venuto, veniva reduce da un infortunio, questo è un vivaio del Pineto, reduce da un infortunio al crociato, sai, qualche... in giro, io sinceramente non l'ho avuto mai questo dubbio, in giro, sai, ma noi l'abbiamo preso, piano piano si è rimesso a posto, ma già il primo anno ha fatto un campionato ottimo, e devo dire che lui in questo è il terzo anno che sta con noi, ma se avrà saltato un allenamento l'anno, ma forse uno l'anno, perché magari Ecco, come questa sera che doveva venire, mi ha detto che stava poco bene. Un giocatore che si allena. Il 96 si allena con impegno, sta sempre al campo, voglio dire, la domenica c'ha delle capacità. C'ha delle capacità perché... Indiscusse, si vedono assolutamente. Lui se tira in porta fa gol. Sì. Cioè lui se prende la... Se lui tira in porta fa gol. È facile che faccia gol. Ma ha fatto tutti i gol, ma veramente belli. Belli. Io ho piacere perché a volte, sai, uno dall'interregionale, dall'eccellenza, con... Lui ha vinto anche un campionato juniores regionale, magari con tante belle speranze, dopo ti fai male, allora subito lo scetticismo. Invece lui è stato capace di mettersi in corsa tra alti e bassi, però io penso che oggi, noi quest'estate qualcuno ce l'aveva chiesto, probabilmente anche frutto del campionato scorso, aveva visto giusto. Però io ho parlato con lui, ho voluto che lui rimanesse ancora qua, perché aveva bisogno di fare un po' il salto di qualità, perché sì, vabbè, la prima categoria va benissimo, però tu capisci le tue qualità quando riesci a esprimerti anche tra virgolette tra i grandi, perché giocare contro Soria o ieri Mainella o che è Ligoschi o compagnia belle, confrontarti con questi giocatori hai anche la capacità di vedere il tuo grado, no? Dove sei arrivato, dove ti trovi, e probabilmente quando vedi che, certo, questi hanno qualche anno in più, insomma, però vedi che tu ci stai come loro, probabilmente ti scatta la lampadina e dici: ma allora io posso essere con i giusti modi, no? con una seria programmazione, con l'allenamento, con la voglia, con la motivazione, con il fare una vita. Ultimamente ho notato una cosa, e probabilmente appartiene anche alla normalità. Tra i dilettanti il capitolo di fare la vita a posto è sempre meno attuale, cioè no, giustamente i giovani trovano soddisfazioni, le serate si esce, le ragazze sono, insomma. Però io devo dire invece che lui è un ragazzo, ma non sarà perché abita vicino a casa mia, che è dopo la domenica si vede. La domenica si vede, perché noi, cioè questo comunque è uno sport, bisogna essere atleti e bisogna interpretare lo sport con i sani valori, perché se dopo invece ci vogliamo, come dire, abbandonare all'idea, vediamo come va, una domenica può anche andare bene, ma dopo a lungo andare, se uno, tra virgolette, nutre degli obiettivi, delle aspettative, se dopo invece andiamo al campo a finire la giornata, andiamo alla domenica, vediamo che succede, tutto lecito, però io credo che uno che abbia in sé ancora un obiettivo, penso che debba fare le cose nella maniera giusta. Io penso, tra virgolette, che Lorenzo sia un po' un nostro vanto, no? Non è che noi facciamo settore giovanile, però insomma un giocatore. Però magari mister, secondo te è pronto per questo salto di qualità, di salto di categoria? Ma lui secondo me è pronto. Deve, lui adesso, se avrà la fortuna, qualcuno lo porterà, se non dovesse rimanere qua, no? Io no, no. Però lo porterà ad andare a giocare in eccellenza, se dovessero accendere i fari su di lui. Lui si deve allenare, deve fare come sempre fatto, partendo con umiltà, magari dietro a uno che sicuramente ha i vantaggi della vigilia, no? Quello che gioca, e dopo magari piano piano trovarsi il proprio spazio. Quindi io proseguirei con la lettura dei risultati, certo, del cambio di promozione del girone A. Partiamo dal girone A perché appunto è in ordine alfabetico, poi parleremo del Real Trecciminiere che sta stupendo tutti, come ben detto prima. Sì. Allora io proseguo con questa lettura: Fontanelle, Sant'Omero Palmense 3-0, Luco Alba Montaurei 1-0, Mutignano Pucetta 2-0, Notaresco Virtus Termo 1-2, Sant'Egidiese San Gregorio 2-2, Piano della Lenta Colonia 1-3, Ponte Omano Celano Marsica e Rosetana Mociano 3-0, Tossicina Morro d'Oro 0-0. Leggo la classifica: Virtus Termo 63, Ponte Romano 61, Luco 54, Fontanelle 49, San Gregorio 48, 46 per Pucetta e Rosetana, 43 per il Colonia, 41 per il Mociano, 39 per il Piano della Lente, 38 per il Celano Marsica, 35 per la Nuova Sant'Egidiese, 33 per Morrodoro, 29 Sant'Omero, 28 Mutignano, 24 Tossicia, Alba Montarreo 20, Notaresco chiude a 14, ormai possiamo dirlo, è quasi spacciata il Notaresco. Mister, hai allenato anche squadre che militavano nel girone A di promozione, non so magari se sei riuscito a cogliere in questo anno di girone B le differenze, non so magari se sono campi più ostici, sono campi più fisici quelli del girone A, più tecnici del girone B oppure viceversa. No, guarda, io quello che ho potuto riscontrare un po' è che probabilmente, perlomeno noi nel girone B di fondo non conosciamo nessuno, non abbiamo... Anche territorialmente, sì, non abbiamo rapporti, voglio dire, noi andiamo a giocare e questo un po' ci libera, non ci sono implicazioni, magari vai a giocare una squadra che è più vicina, ci si conoscono i giocatori, si crea tutta una serie di... Invece qua no, noi andiamo a giocare, i campi sono tutti quanti, vabbè, ma d'altra parte voglio dire, oggi un po' sono un po' finiti i tempi in cui... Anche ieri siamo andati a Casoli, sono quei 10 che sono i tamburi, che fanno da coreografia, che ti fanno piacere pure, perché voglio dire, non è che i campi caldi oggi di qualche tempo fa non ci sono più. Io ho visto un girone molto tecnico, squadre molto giovani, forte propensione a giocare sempre, a provare. Società blasonate, Val di Sangro, Ortona, Flacco Porto, Casalbordino, cioè tutte squadre che hanno fatto la promozione da sempre, ottimo campionato, buon livello, qualche allenatore veramente bravo, e non è che devo giudicare gli altri, però lo vedo, se uno mi fa piacere anche guardare la squadra avversaria. E quindi niente, è un campionato bello perché è stato per noi anche un po' avvincente, perché siamo sempre stati lì, una partita dopo magari vai a giocare, magari la vinci, quell'altra pensi e dopo magari invece non la vinci, e quindi è stato sempre questo, fin quando abbiamo trovato un po' un filotto positivo, ci siamo messi a quota 42, che ovvio non è rassicurante, perché insomma, probabilmente la quota salvezza si è alzata un po', però insomma mancano ancora 5 gare, abbiamo ancora la possibilità di, mi auguro, di fare qualche punto e di centrare quello che un po' era l'obiettivo nostro. Però ovvio, non ti nascondo che in tante gare abbiamo strizzato un po' l'occhio, d'altra parte noi siamo quindi, oggi siamo quindi, certo il gap con la seconda è alto, però siamo quindi, però è lecito volare, sì, alto a pari punti con il Sulmone, ripeto che è una corazzata veramente, cioè, ma d'altra parte, ma tutte quante, perché tutte le squadre che stanno su hanno, sì, d'altra parte è ovvio, io dico è una corazzata ma nel senso positivo, è ovvio, torniamo al discorso di prima, che chi può fare le cose fatte in un certo modo, avere organici importanti, delle rose, è ovvio che è giusto che le debba fare, perché è ovvio, se non lo fai sul Mono che ha 30.000 abitanti, voglio dire, Ortona sul Mono, cioè, sono delle realtà, probabilmente il Lanciano, ma non diriamo, cioè sono delle realtà che esulano un po', cioè hanno un blasone importante, e quindi è giusto fare, quindi noi siamo là, però sappiamo che dobbiamo ancora raggiungere il nostro obiettivo, che è ben preciso, dopodiché insomma, si potranno fare discorsi un po' più leggeri. Oggi bisogna stare con i piedi per terra, perché bisogna avere entrambi i fronti, quindi sì, entrambi i fronti, bisogna, ripeto, bisogna allenarsi, fare come stiamo facendo. Ovvio, noi quando vinci sei un po' più contento, quando perdi, nonostante i punti, sei un po' più rammaricato, anche perché insomma, però penso che sia così. Girone A ci sono delle squadre anch'esse attrezzate, Virtus Teramo, Ponte Vomano, Luco stesso, insomma sono tutte squadre di primissimo ordine, anche il Fontanelle noi abbiamo giocato la Coppa contro di loro e loro anzi mercoledì giocheranno in coppa contro il Casalbordino, l'andata, la semifinale di Coppa Italia. Mi ha giocato Fontanella, squadra forte, ben costruito. Io ho allenato Fontanella il primo anno che loro erano pervenuti in promozione, probabilmente c'era ancora qualcosa da registrare, da capire, però penso che adesso Fontanella rappresenti una società importante, una società che ormai si è affermata con dei valori certi, ha trovato anche in Mino Bizzarri una guida sicura, esperta, e quindi stanno facendo bene. Da un po' di un po' sto Mutignano che è partito, mo piano piano si sta riprendendo, anche se hanno una rosa comunque del tutto rispetto, anche sì, perché però, hanno attaccanti come Trento e Assogna che davanti fanno, sì, la differenza, però probabilmente in una certa fase, non lo so, hanno approcciato un po' male, hanno, all'inizio noi pure abbiamo fatto la coppa contro di loro nella seconda giornata, effettivamente li ho visti un po', abbiamo vinto largamente, che non è nelle nostre corde, insomma, quindi un po' qualcosa da mettere a posto. Dopo piano piano, però sai, dopo le partite si sommano i punti, le partite qua dopo magari vinci, ma basta che ne perdi uno o due e torni sempre lì nella zona rossa, là, perché capito, dopo le cose funzionano così, anche perché c'è stato l'avvicendamento in panchina, è stato, sì, detto da Macera che era ormai lì da quasi 6 anni o 5 forse, sì, comunque per un periodo molto molto, sì, lungo, e Danilo, non è mai facile. Ma Danilo era stato là per 4 anni, questo credo sia il quarto anno, perché io sono andato, lui è andato via dal 3C, sono arrivato io, quindi 4 anni. Ma sai, l'esonero tra virgolette si dice sempre che fa parte del ruolo dell'allenatore, ma è ovvio che quando lo subisci, io, a me pure è successo, voglio dire, allenatore non è che però a volte bisogna anche capire che ci sono delle dinamiche che bisogna fare in un certo modo, e probabilmente l'allenatore, che più delle volte non è che è il colpevole, però qualcosa bisogna fare. In Italia nascosta parte da lì, purtroppo. In Italia ci sta questa regola che dopo alla fine a volte anche fine a se stessa, nel senso che io penso che alla fine, perché insomma alla fine i valori, sì, l'allenatore può ingiri, dicevamo prima, però insomma hanno fatto questa scelta, è arrivato Mazzacatti, Mirko, un bravo ragazzo, io lo conosco bene, persona squisita, taciturna, che lavora sul campo, insomma, peraltro come avrebbe fatto insomma Danilo, e piano piano sta cercando di riportare su questa situazione, che comunque insomma non è facile, ripeto, c'è stato questo avvicendamento, un po' gli allenatori, gli esoneri li subiscono, però bisogna anche capire, però purtroppo non si possono cambiare 20 giocatori, quindi no, bisogna capire che se abbiamo mandato Lippi ad allenare in Cina dopo la Coppa del Mondo, vuol dire che ognuno di noi può essere tranquillamente sostituito. Eh sì, sì, allora mister, proseguirei con la lettura dei risultati del girone B, quindi cosa che le interessa sicuramente. Allora, leggo i risultati, anche se forse non piacerà il terzo che andremo a leggere. Passo Cordona, Palombaro 3-0, Bucchianico, Val di Sangro 4-0, Casolana, Real Tre Ciminiere 1-0, Castiglione, Ortona 1-1, Fater Angelini, Abruzzo, Casalbordino 1-3, Fossa Cesia, Raiano e Sulmona, Villa 2015 1-0, Piazzano, Virtus Pratola 1-1, Sportland, Celano, Delfino, Flaccoporto 3-3. Leggo velocemente la classifica: 59 Flaccoporto, 56 Casalbordino, 55 Ortona, 52 Val di Sangro, 42 Real Tre Ciminiere e Sulmona, 41 Villa 2015 e Bucchianico, 40 Casolana, 39 Passo Cordone, 38 Piazzano, 35 Raiano, 33 Fossa Cesia e Fader Angelini, 32 Virtus Pratola, 31 Castiglione Valfino, Sport Lancelano 28, chiude il Palombaro. Ormai non so se matematicamente retrocessa, ma comunque 14 punti. Ci sono ancora 5 punti. Un punto. Sì, vabbè, sì, perché dopo loro avrebbero il distacco dalla quinta ultima, eventualmente si sono retrocessi. Però devo dire una cosa. I discorsi prima del girone B, rifare il girone B mi ha riportato un po' al primo anno che sono venuto ad Atri, che l'Atri ha fatto sempre il girone B, in quegli anni faceva sempre il girone B, mi ricordo l'allenatore Truda mi volle qua ad Atri, allora ci sta proprio guardando, ci sta guardando in diretta, allora un saluto a Roberto, che è quello che di fondo mi ha permesso insieme all'allora Saverio Italiani, mi vollero riportare ad Atri. Io cioè, avevo subito un infortunio importante. Piano piano, insomma, mi ha rimesso in piedi. Io sono sempre grato a Roberto. E mi ricordo che facciamo questo girone, andavamo a giocare a Val di Sangro, Perano, Altino, Casal Bordino, Rocca Santa Maria, Santa Maria in Baro, cioè Santa Maria in Baro, Vasto Marina, campionati squadre a San Buceto, a Vincenti. Mi ricordo veramente, pure ad Atri, ho sentito prima il discorso che Matriciani, pure ad Atri, quello fu un anno di ricostruzione, eppure lì si ripartì con un allenatore che aveva delle idee, mi ricordo veramente, delle idee innovative, facevamo cose che dopo io ho rifatto negli anni alla Renato Curi e che ancora sono attuali. Ripartì da un gruppo di giovani locali di Atri, la Sogna, Pallini, Giovanni, della Sciucca, Ciccarelli e tanti ragazzi giovani, pure Matriciani, questi, Roberto Martella, che venivano dietro, e insieme a qualche giocatore, ecco, che da rimettere a posto, venni io di Bonaventura, ci stava Nicola Leone, grandissimo Nicola Leone, e piano piano furono rimesse le basi perché l'Atri potesse ripartire. E insomma, dall'89-90 si è arrivati fino agli anni 2000, dopo probabilmente un po' il declino c'è stato, insomma, la congiuntura economica, ma mi auguro che Atri possa riprendere. Sì, declino, quindi, però comunque sempre nella fine, negli anni, inizio del 2010-2009 c'è stato il declino definitivo dell'Atria calcistica, quindi sì, diciamo sì, che sì. Il periodo dall'89 fino al 2010 sono passati 20 anni, quindi 20 anni, non sono pochi. Io mi ricordo, noi era abitudine allenarsi 2:30 del pomeriggio, trasferte, ritiri, non ci mancava nulla, campo perfetto, rimborsi puntuali, nonostante ci fosse il primo anno una sorta di commissariamento, perché venne il Saverio Italiani, che era il commissario del comune, e insieme a Druda, insomma, si davano da fare. Mi ricordo che c'era anche Angelo Sorricchio che si avvicinava. E dopo gli anni dopo venne Piero Martella con tutta la sua irruenza, la sua voglia, la sua esuberanza, e facemmo bei campionati, sfiorammo due volte la Serie D. Io mi ricordo, mi sono mangiato un gol contro la Renato Curi, che me lo risogno. Ecco, a volte questo vorrei dai miei giocatori, che io lo dico, io quando ho giocato, forse non lo so, ero così, ma mi sono dannato l'anima. Non trovavo mai un equilibrio, era sempre un qualche cosa che c'avevo dentro, sempre andare al campo, fare gol. Si vede anche in panchina, mister, goal, sempre superante. Sempre fare gol, sempre, capito, come se fosse l'ultimo tiro, come se fosse l'ultima partita, sempre. Io penso però che se debba essere quello un po' lo spirito di chi fa lo sport, soprattutto ai livelli nostri. Io mi ricordo quell'anno, fu un anno importante, che probabilmente sono state messe le basi, che poi tanti giocatori hanno giocato per tanto tempo in quella sì, anche squadra. Lo stesso Druda ha fatto anche la fortuna di Atria, ha cacciato molti giocatori che dopo hanno soprattutto al Sud America, come il suo campo, adesso sta facendo la fortuna del Pescara Calcio, sì. Ricordiamo, uno di tanti giocatori che ha scovato è Torreira della Sampdoria, un giocatore che sta facendo la differenza anche in Serie A, quindi le sue qualità si vedevano anche all'epoca, quindi. Io penso che nel calcio ci siano degli io li chiamo artigiani, degli artigiani, come l'artigiano si mette là e modella, lavora in silenzio, fa e crea dentro di sé tutta una serie di capacità che dopo di colpo, no, escono fuori e magari uno si sorprende, no, ma dice, ma questo modo di colpo, ma tu devi vedere tutto, no? Tutto quello che ci sta dietro, questa cartina così di tornasole, questa che ma sembra tutto semplice, ma devi vedere che cosa ci sta dietro. Mi ricordo una sera, parlando di Roberto, ce ne sono tante le cose che mi vengono in mente. Stavamo in un ristorante, là così, io e mia moglie, a un punto incontro Roberto con un ragazzone alto. Oh, ciao Alfredo, oh, mister, come stai? Tutto bene? Sì, bene. Ma questo è un ragazzo con un infortunio dal Real Madrid. Cioè, questo ha avuto un infortunio al ginocchio, ma questo è forte. Dopo non ho mai capito che fine avesse fatto. No, per dirti che c'è tanto lavoro, c'è tanto. Mi ricordo le prime volte che lui andava là in Uruguay, io l'andavo a trovare, che lui dipingeva, mi piaceva questa sorta sua di stare là assorto, dipingere ogni pennellata, no? E magari dopo me lo ritrovavo al campo e con questa c'aveva qualcosa di diverso, c'aveva qualcosa dentro, no? E quando tu c'hai qualche cosa dentro e dopo, poi esce. Eh sì, dopo si devono combinare una serie di cose, però tu, c'è un detto di un poeta, dice: se vuoi qualche cosa devi allungare la mano e te la devi prendere. Però tu devi avere la capacità di allungare la mano e di capire che cosa vuoi. Quindi quando io ho avuto la fortuna di avere a fianco, sia quando giocavo, dei giocatori che dopo sono arrivati a giocare mondiale, a giocare in Serie A. Io ho giocato con un giocatore che alla fine ha battuto l'ultimo calcio di rigore ai mondiali. Cioè una cosa, ma è veramente una cosa grande, no? E io mi sono sempre interrogato, no? E dopo rileggendo le cose tu vedevi che quello c'aveva qualcosa di diverso, cioè quello c'aveva qualcosa dentro che quando faceva le cose c'aveva qualcosa di diverso. Dopo ovviamente non tutti arrivano a calciare l'ultimo rigore mondiale, però è così, magari qualche altro tu vedi che c'hanno qualche cosa dentro, e prima o poi se uno c'ha qualcosa dentro è più facile che esca fuori. Se uno non c'ha niente, fa la meteora, no? Fai i tuoi 7, 8, 10 anni, punto, finito, vai con gli amatori, finito la storia. Ma va bene pure. Però, insomma, è pure giusto dirlo, che chi riesce, non è che riesce perché, no, è quell'amico di questo, è amico di quell'altro, questo non è così. Non è così. Chi riesce... A qualità. Io non ho mai pensato che qualche amico mio allena in Serie A oppure ha giocato in Serie A perché era più bravo di me, punto. È finito, ma non è... È una cosa chiara, semplice. Io penso che capire le cose sia un buon punto di partenza. Io mi ricordo che Giampaolo giocava contro il primo anno contro la Juventus, Ascoli Juventus. Io giocavo a Pineto, Casoli Cerchiara. Cioè, voglio dire, non ci sta correlazione. Quello fa un percorso, fa una cosa, tu ne fai un altro. Le persone sono tutte quante uguali, ma quello che le persone fanno non sono uguali. Ma penso questo sia un buon punto di partenza per vivere una vita serena e tranquilla, per non avere scompensi, per non avere grilli per la testa, insomma. Però sicuramente bisogna nella vita porsi obiettivi maggiori di quelli che sono reali, è sempre lecito. Come no, sognare come non costa niente, quindi. Shakespeare diceva che se uno ha un sogno, almeno un solo sogno, è una vita va vissuta, c'è un modo, è giusto viverla, almeno deve avere un sogno, se uno non c'è nemmeno un sogno, insomma. Il sogno del Real Trecce Minere, sì, era salvezza, quello più che sogno è un obiettivo, perché sì, si sta concretizzando punto dopo punto, matematicamente mancherebbero soltanto 6 punti, ma ovviamente saranno sicuramente meno per avere la salvezza in pugno. C'è il sogno playoff, è quello il vero sogno che... Ma io ti dico la verità, quello che io vorrei, avrei voluto, e in alcune occasioni l'abbiamo visto, era quello che di vedere una squadra, senza esagerare, di una squadra che avesse, che chi la vedesse giocare avesse una sensazione, no? Avesse un'emozione, ma qualche cosa di diverso ho visto. E devo dire, senza che in tanti, qualche amico viene a vedere le partite e mi dice: ma effettivamente qualcosa... Ecco, a noi questo ci basta. Dopo è ovvio che i risultati vanno conquistati sul campo, ma voglio dire, non è che si può vivere di filosofia. Ma ha detto ieri uno: ma lei, mister, c'è una bella filosofia. Ho capito, una bella filosofia. Noi andiamo avanti. Una bella filosofia, che devo fare? Voglio dire, noi questi siamo, portiamo avanti la nostra filosofia. È ovvio che quando vinci la filosofia ti sembra azzeccata, quando perdi probabilmente la filosofia ti sembra meno, però voglio dire, uno deve cercare di tenere la barra dritta e andare avanti. Noi questo è un po' quello che vogliamo fare, e sappiamo che oggi un giocatore sul gruppo ha scritto: abbiamo 5 finali, basterebbe anche semifinale, per fortuna, perché il livello è talmente alto che bisogna anche avere i piedi per terra, insomma, non è che... Sì, magari questa convinzione, appunto, 5 finali un messaggio scritto così magari per chi guarda da fuori non avrebbe tanta importanza, però se si va ad analizzare questo messaggio possiamo vedere bene che i ragazzi ci credono, sì, sono dei ragazzi che si mettono l'anima in questo, certo, questo Real Tre Ciminiere, e forse questo è quanto distingue appunto la vostra realtà da molte altre che... Ripeto, il campionato sta ancora lì, noi però insomma, sappiamo... Ma guarda, quando dico che noi dobbiamo stare con i piedi per terra, questo i ragazzi lo sanno, non ci deve suonare come un ridimensionamento, ma anzi, ci deve far capire che per raggiungere quello che probabilmente abbiamo, dobbiamo stare là con i piedi per terra e pedalare e cercare di essere opportuni senza sbagliare niente, perché noi purtroppo noi non possiamo sbagliare niente, non possiamo sbagliare niente, lo sappiamo, questo non ci deve pesare, non deve essere una sorta... Di limitazione. Io penso, ripeto, quando uno sa i propri limiti penso che le cose vengano meglio. Un anno allenavo una squadra, gli dissi: guarda, noi andiamo a giocare là, quelli sono più forti di noi e noi dobbiamo stare attenti perché quelli sono più forti di noi. Questo fu interpretato da parte della società come un senso di resa, no? come noi andiamo là e dopo sono retrocessi, amiche, capite che ti voglio dire? Cioè, bisogna capire chi sei, dove vai, da dove arrivi, e questo non ti deve essere una limitazione, però ti deve essere, come il navigante, no? Deve avere sempre un occhio verso le stelle, perché le stelle ti possono guidare. Mo, tra parentesi, sto clima di politica, le stelle qua ci si inoltrerebbe in un discorso un po' più particolare. Però mister, a proposito di piedi per terra, a proposito di filosofia, io ho avuto il piacere di ascoltare un suo discorso prima della partita, ma questo è un retroscena. Come ha fatto? Di fuori gli spogliatoi, non abbiamo telecamere come per un sport e Sky. Allora. Forse erano passati, non so se era la sesta o la settima giornata di questo campionato, sì. Eravate da 6 o appunto 7 risultati utili consecutivi, perché... Diciamo, avete fatto 15 partite senza sconfitta in giro d'andata. Sei stati la squadra meno battuta nella prima parte di campionato. Sì. Dopo abbiamo perso contro la Fader, che mi hanno rubato la macchina. Il giorno prima mi hanno rubato la macchina. E allora sono stato un po', ma non è che abbiamo perso. Però effettivamente mi sono reso conto che la squadra è andata in campo in ballo. È stata una giornata strana, tutta particolare. Abbiamo perso la prima partita, sì. E quindi dicevi... Sento questo discorso. Sì. Che lei diceva, ricordando in dialetto, come questo, ovviamente... Sì, sì. Ma sai... Il dialetto fa parte del nostro... È più immediato. Di noi. Esatto, è più diretto, entra più in testa. Sì, questo è come Troisi che diceva che i nomi troppo lunghi fanno i bambini poco educati, no? Perché... Questo discorso, lei diceva, voi vedete i giocatori in televisione, pensate di poterli emulare, ma voi dovete fare giocatori di promozione e basta. Sì. Questa è proprio la filosofia di Marzio, Di Marzio. Sai che succede? Che di esempi, no? Oggi tutto è social, tutto anche noi, no? Siamo prima, questo qua non sarebbe stato. Io mi ricordo tanti anni fa c'era un emittente televisivo qua. Atri, non mi ricordo. Teleatri, una cosa del genere. Quindi andavi là, però era meno immediato, no? Tutto un po' rallentato. Oggi è tutto più immediato. Allora si rischia pure, no? Che vedi quello e allora quello ti si presenta con le scarpe. Ma tu però non sei Cristiano Ronaldo. Cioè, voglio dire, ragazzi, qua ci vuole calma, no? Tanta calma, tanta stare qua e capire, perché altrimenti, no? Rischiamo di fare quelli che non siamo e quando uno fa quello che non è, prima o poi insomma le cose vengono fuori. Questo probabilmente è una sintesi, ma sai, io prima delle partite dico tante cose e a volte mi accorgo anche che i giocatori non aspettano altro. Io a volte arrivo al campo, magari abbiamo lavorato tanto in settimana, ci siamo detti tante cose, abbiamo fatto tante cose. Probabilmente non avrei nemmeno tante cose da dire, perché io agli allenatori che parlano tanto di calcio non è che ci credo, cioè quando tu le cose le dici, le racconti, ma dopo si perché così le cose perfette non esistono. Puoi dare dei consigli, è giusto che uno li dia, ma in base anche un po' alla sensibilità che uno ha. Quindi a volte mi accorgo che i giocatori un po' mi stuzzicano, no? Mi dicono delle cose perché io dopo prenda e parta e vada nelle direzioni più disparate. Devo dire che a volte si creano queste situazioni. Ma sai, anche lo spogliatoio è un ambiente un po' particolare. Io a volte non sono riuscito a parlare dentro gli spogliatoi, perché vedevo che c'era un clima particolare di non accoglienza, di quello che ti sta a sentire quello che dici per capire se, che quindi dopo riportare, insomma, tutte queste cose che purtroppo nel calcio ci stanno, esistono, no? Che non pensiamo che il calcio sia tutto così, ambiente, oppure che noi sia tutto così, rose, non è così, perché a volte ci si prende, si arrabbia, ci si dicono anche delle cose che probabilmente non si pensano, ma però non so, tanto uno se le dice, è anche un modo per andare avanti, un modo per andare avanti, perché magari hai perso, hai voglia di cose, il giocatore magari ti risponde un po' sotto sopra, però, e quindi a volte si fanno questi discorsi così, per cercare di attirare un po' l'attenzione, ma soprattutto, sai, io quando giocavo sentivo questi allenatori che parlavano, dicevano, io glielo dico sempre, io non sentivo niente. Io stavo là. Anche perché poi un giocatore si concentra sulla partita, non... Sì, ma io non lo so, io stavo là, aspettavo che l'allenatore finisse di parlare in religioso silenzio. Dopo c'era tutto una cosa mia di vestirmi, di prepararmi, mi ero preparato le scarpe, questo sì, sapevo il campo com'era. Sapevo l'avversario che mi marca, questo sì. Però per il resto non è che facessi tanta attenzione alle cose dette. Io andavo un po' come un cane sciolto così, da solo. Giocavo questa mia partita così. Quindi discorsi un po' degli allenatori, no? Che raccomandano le cose, ti dicono. Dopo il giocatore va in campo e ti ripete, è come ce lo mandi in campo. Sì, mister, poi ovviamente certi, magari come hai detto tu, i giocatori ti prendono per poi, ti aspettano le perle di Di Marzio, però lo possiamo dire chiaramente, i numeri parlano, la forza del Real Tre Ciminiere, la forza anche di Di Marzio è il gruppo, è il saper avere un gruppo, perché tutti in questi anni passati al Real Tre Ciminiere sono stati caratterizzati appunto da un gruppo coeso che andavano tutti quanti verso lo stesso obiettivo, quindi questa forse è la forza del... Tre anni fa avevamo un giocatore che ha fatto tanti gol. L'anno scorso è venuto Fabio Sorriggio. Questo era Ranni il giocatore? Sì. L'anno scorso è venuto, insomma, ha fatto tanti gol. La gente, no? L'anno scorso è venuto Fabio. A un certo punto abbiamo giocato contro San Giovanni in casa, perdiamo 2-0. Fabio ha fatto gol, abbiamo fatto 2-3 gol, ma abbiamo vinto. Però negli ultimi 10 minuti io ho visto il vero giocatore di calcio. Cioè, allora, fare gol non basta fare gol. Ci sono giocatori che incarnano qualcosa di diverso. E quindi è questo quello che noi andiamo... Penso che una squadra che voglia vincere alla ricerca di questi giocatori deve andare. Perché vedi, facendo un esempio che penso sia un po' più facile da cogliere per tutti. L'Higuain che giocava a Napoli era un giocatore forte, sicuramente forte, ma che era stato tolto dal Real Madrid. E se il Real Madrid ti toglie, fa una scelta tra Benzema e Higuain, vuol dire che tu c'è qualche cosa che non hai o che devi avere. L'Higuain che abbiamo oggi a Torino è un giocatore che potrebbe giocare con il Real Madrid. E allora vuol dire che fare gol non basta, perché Higuain ha fatto il record dei gol in Serie A, adesso ne fa, se gli va bene, la metà. Allora come? Allora, 2 anni fa era 36 gol, non era, e quest'anno ne fa di meno, allora com'è? Allora vuol dire che i gol sono importanti, ma non bastano. I gol che fa, tanto io lo dico, cioè Icardi non vale nemmeno la metà di Higuain. i gol che fa Icardi all'Inter gli fanno probabilmente guadagnare 3 punti, va bene, ma non creano nulla, non creano quel substrato su cui tu dopo puoi fare forza, capito? Invece Higuain è un giocatore che dopo ce lo trovi e ce lo trovi tutto campo, ce lo trovi non solo a tirare in porta, a volte tirare in porta, vabbè, ti arriva la palla, comunque i tuoi compagni hanno fatto sì una serie di situazioni che tu possa tirare in porta, ma fare uno scatto, correre in diagonale con l'avversario dietro, prendere palla, fare fin, scaricare e ripartire, ci vuole la forza, bisogna allenarsi, bisogna avere la motivazione, è quello che tu vedi, no? Quando tu vai a vedere, io seguo poco il calcio, ogni tanto sono andato a vedere la partita 2 volte a Milano, io sono tifoso della Juventus, però sono andato a vedere la partita a Milano, è più vicino. Ho visto giocare Ibrahimovic, no? Non c'è. Ho visto Milan-Arsenal, Ibrahimovic è un'altra categoria, un'altra cosa, cioè proprio, e tu quindi dal vivo vedi il giocatore. Allora il giocatore, mo, con le dovute cose, fare gol non basta, bisogna andare oltre. Chi è quindi noi, ripeto, noi abbiamo giocatori, cioè io l'anno scorso Marotta, che è un giocatore forte, ma veramente forte, cioè ha fatto di tutto, si è sacrificato, ha fatto di tutto. Anche perché abbiamo visto prima punta, parecchie partite. Prima punta non ce l'avevamo. Anche quest'anno. Beh, cioè, noi non giocavamo un po'. Voglio dire, cioè, anche ieri si mette là a correre, a incitare, cioè magari una partita la perdi, però crei qualche cosa, no? Crei qualche cosa che dopo il martedì ti rivedi e si crea quel qualche cosa che probabilmente nell'arco delle 34 gare, probabilmente, insomma, sei stato capace finora, perché ripeto, il campionato ancora va finito, pensando ancora a fare i punti, perché sennò qua rischiamo di far passare un messaggio di quelli che, no, di quelli che vanno in giro senza sapere dove si va. Noi dobbiamo ancora raggiungere il nostro obiettivo, che però è sempre più vicino, questo lo possiamo dire. Allora, mister, io proseguirei con la lettura della prima categoria, girone, dove siete stati fino all'anno scorso, certo. Quindi campionato che conoscete bene. Sì. Allora, i risultati: Torrevecchia, Real Villa Carmine 0-5 per Lengia, 5-4 con l'Adria, col calcio Adria, una partita rocambolesca. Borgo Santa Maria Cerratina 5-0, Adria Casoli 1-0, Pennese San Giovanni 1-0, 2-2 tra San Donato Castellammare Pescara Nord, Silvi Elicese 2-1, il vero e proprio big match di giornata, Villa Bozza Montefino Vis Monsilvano 0-1. Ecco la classifica velocemente: Borgo che comanda con 55 punti, seguono Adria 51, Silvi 50, Elicese 47, Monsilvano 44, Calcio Adri 40, Verlengia 39, Real Villa Carmine 35, San Donato 32, Casoli 30, 27 per il San Giovanni Teatino, 22 per la Pennese, 21 per il Castellammare Pescara Nord, 20 per il Villa Bozza, 13 per il Cerratina e 7 per la Torrevecchia Teatina. Allora, mister, siete stati fino all'anno scorso in questo campionato, l'hai assaporato, avete assaporato anche la gioia della vittoria finale, ma tutti pensano che la prima categoria, sì, sono delle categorie minori, però la difficoltà è sempre tanta. Allora, bisogna innanzitutto dire una cosa, dire che bisogna vedere gli obiettivi, tra virgolette, che uno si pone. È ovvio che fare un campionato di promozione è di gran lunga più difficile e impegnativo di un campionato di prima categoria, d'altra parte le categorie ci stanno apposta. Però è ovvio che se tu hai l'obiettivo di vincere, non è facile. Campionato di prima categoria, le squadre sono tutte attrezzate, e gli allenatori sono, non è che voglio dire, sono tutti quanti allenatori che allenano le squadre, quindi trovi le squadre preparate. I giocatori, ogni squadra ha i suoi giocatori, no? Senza citare. Però sono tutte squadre fatte, quindi se tu vuoi vincere e primeggiare, va da sé che è un campionato difficile, molto, ma molto difficile. Noi l'anno scorso abbiamo vinto, alla fine 10 punti, 11 punti, non mi ricordo. Sì, quasi 12 punti sono stati. Però io ti posso assicurare che ci sono state delle gare molto difficili. Anzi, abbiamo vinto una partita a Torrevecchia, ma veramente è stata una cosa epica. C'è un campo, la polvere, la gente, le cose, la rete là, le mischie, è stato alla fine insomma, è stato fatto due gol alla scala su punizione, se no non abbiamo passato a metà campo, cioè, impossibile giocare, possibile, cioè una cosa. Quindi, capito, devi avere risorse, devi avere quello che ti risolve la partita, quello che comunque quando rischi, quando non giochi, avere un gruppo solo, la società che comunque tiene botta anche nei momenti difficili. Non è vincere, è ovvio, se fai il campionato di prima categoria, dici vabbè, vediamo che succede, è ovvio che è più semplice. Sì, più, quello sicuramente. Tutto è più, no, è tutto è più dilatato, tutto è più un po' più semplice. Però se tu hai l'obiettivo di vincere, infatti le squadre che stanno sopra tutte sono attrezzate per vincere e tutte vogliono vincere, è ovvio che una vincerà e mi auguro che l'altra attraverso gli spareggi possa anche essa approdare in promozione. Adesso ci sta, io ti ripeto, un po' mo seguo, però un po' meno, perché però sono insomma le squadre qua del territorio nostro, che le squadre che un po' più si sono vicine anche per una questione di conoscenza con le persone, no? Sai un po' i risultati, sai un po' le squadre, e sono tutte, tutte belle squadre. C'è il Borgo che veramente ha fatto una cosa fatta bene, anche secondo me avvantaggiati dal fatto di avere il campo in sintetico nuovo, sai, dicevamo prima, no? Cioè comunque il bello aiuta a essere più belli. La società solida, ripartita, ha fatto le cose fatte bene. Ci sta... Anche la sinergia con il Pineto stesso, che ha dato, ha portato sì. I frutti. Sta sì, frutti. Sì, sì. E dopo, dopo ci sta l'Atri, che comunque Atri e Silvi, andiamoci chiaro. Sono anche loro due corazzate. Ma sì, ma a parte Silvi, probabilmente anche un... Insomma, fatta... Sì, sicuramente attaccanti che magari in promozione non anche, farebbero anche 20-30 gol in promozione. Anche la disponibilità economica incide. Dico... Però sono due squadre un po' più blasonate, no? Silvio, cioè, se non altro per la propria storia. E dopo ci sta Elicese. Elicese è la squadra che sta sempre lì. L'anno scorso era con voi a sì, battagliare cioè, fino stata, alla fine. È stata lungo tempo, per lungo tempo prima, quindi mister Dani Cichella sa il fatto suo. Dopo ci sta ecco la Vis Montesilvano, che noi l'anno scorso abbiamo vinto, credo giù abbiamo pareggiato con un altro Eurogol su punizione di Raschellama, noi eravamo veramente in pessime condizioni là, tutti infortunati con la febbre, qualcosa, prima partita di Fabio, vabbè, no, pure là noi non meritavamo sicuramente, meritavamo fuori bene, se avessimo perso non succedeva nulla. In casa abbiamo vinto, ma dopo una sofferenza 2-1, veramente quell'allenatore è bravo, la squadra corre, è fatta bene. E Verlencio comunque stanno sempre là, quelli fanno un calcio un po' particolare, il Verlencio però stanno sempre là. Il calcio Atri, insomma, che è il calcio Atri comunque sta nelle primissime posizioni, insomma, sembra a ridosso dei playoff, loro hanno grande voglia di accedere ai playoff. Quindi ripeto, è un campionato ancora tutto da giocare, seppure il Borgo Santa Maria c'ha 5 punti, credo 4 punti di vantaggio, è ovvio che da adesso avrà tutti i scontri fuori casa, vedi, non lo sapevo, però sarà, è una difficile. Squadra ben attrezzata, sarà vincente fino alla fine. Ripeto, mi auguro che venga il migliore. Mister, sei riuscito a individuare una nuova Real Tre Ciminiere in questo campionato oppure ma pensi sia più combattuta? Per la vittoria finale? Sì. Ma per la vittoria finale, visto anche diciamo le partite che mancano, credo sia difficile, se no, cioè voglio dire, comunque il Borgo c'ha 4 punti di vantaggio, però insomma... Noi mi ricordo a 4-5 partite alla fine avevamo 11-12 punti, abbiamo vinto prima di Pasqua, ad aprile, però sicuramente ad oggi il Borgo Santa Maria è quello che anche per una sorta di continuità che ha avuto nel campionato, qualche piccolo passaggio a volo soprattutto in casa, qualche, però per il resto sì, anche all'inizio dovuto al campo sì, che giocavano a Scherno, sì, un po' là giocavano. Quindi penso che abbia tutte le carte, ma tutte quante mo stanno là, certo, comunque avere 4 punti di vantaggio sono anche se il Silvia ha fatto 10 vittorie consecutive, sì però sai in rampa di lancio il Silvia dicevo prima, è una squadra, società blasonata e tutto, però sai pure tutte queste lunghe rincorse, magari arriva la partita fondamentale, per esempio, che ti devo dire, io mi ricordo un anno a Casoli noi partimmo tardi, dopo siamo andati in promozione, però partimmo tardi, facciamo una squadra tardi, girone di ritorno abbiamo fatto 13 vittorie e 2 pareggi, abbiamo vinto contro la prima che stava davanti a noi, l'abbiamo vinto su fuori casa e tutto, mi serve da un punto dietro, perché magari un pareggio, capito, quelli si sono, quindi a questo non so quante partite manchino. Mancano 6 partite. 6 partite, 4 punti sono tanti punti. Certo, sono tanti punti, possono essere pochi, però insomma, credo che comunque stare avanti sia sempre meglio che stare dietro, perché comunque tu stai davanti, giochi tu, giochi la partita tua, non devi dipendere dagli altri. È ovvio che insomma, le partite ce ne mancano 6, sono tanti scontri. Sicuramente chi vincerà avrà avuto merito. Ora io in chiusura leggerei i risultati della seconda categoria girone D, dove c'è la Scernica. Sì, abbiamo fatto con degli amici, abbiamo fatto sì che si ripartisse un po', che anche Scernica avesse una sua squadra, insomma. Scern nel proprio piccolo ha sempre avuto la propria squadra, siamo anche arrivati in eccellenza, e io ero l'allenatore pure là, non ci siamo salvati ma non siamo arrivati ultimi, e anzi abbiamo dato del filo da torcere a tutti quanti. Mi ricordo una partita epica contro il Penne, che li allenava Cambrone e Montani, che quando alla fine abbiamo vinto noi, nel complimentarsi hanno detto: mister, oggi non abbiamo capito qualcosa qua, è successo qualcosa di strano, non abbiamo capito bene. E quindi Scern ha sempre avuto, come dire, la propria squadra, siamo ripartiti con un gruppo di amici, abbiamo vinto un campionato di terzo, mo stiamo in secondo, stiamo primi, l'allenatore è Marco Pepe di Atri, insomma, mo, cerchiamo di viverla nella maniera giusta. Ovvio che è una realtà più piccola, però piano piano, però i risultati si vedono, i risultati arrivano, si vedono. Vediamo i risultati, quindi Real Castellalto Arsita 2-2 nell'anticipo del sabato, domenica Bisenti, Rocca Santa Maria 2-0, Cambri Scerne 1-1, Cappelle Castagneto 0-2, Corropoli Paterno Tofo 4-2, Cortino Casemolino 3-3, Real Bellante United Piane 0-0, riposa Castrum Silvine. Velocemente la classifica, Scerne che comanda a quota 49, 44 per il Castagneto, 42 Cortino, 40 Paterno Tofo, 35 Corropoli Real Castellalto, 34 Arsita e Casemolino, 32 Cambri, 25 Castrum Silvi, 23 Bisenti, 22 Real Bellante, 18 United Piane, 14 Rocca Santa Maria e 7 Cappelle sul Tavo. Mister, mancano precisamente... Allora, mancano due partite... 4 partite, se non sbaglio, se non vado errato. Quando adesso no, questo perché ci sta un girone un po' particolare. Sì, perché qui si riposa, quindi... Si riposa, mi sa che ne mancano 5, mi sa. Sono 15 squadre, quindi 30 partite, metti che una riposa. 15 squadre sono 28 partite. Sì. Quindi mancano 6 partite. Per chi 5, per chi 6. Sì. E niente, noi il risultato che si sta... Lo Scerne domenica c'è lo scontro diretto a Castagneto. Dopo abbiamo una serie di partite, insomma, probabilmente domenica si deciderà domenica. Non sarà una buona fetta di promozione passerà lì. Però sì, noi abbiamo qualche infortunato di troppo, perché abbiamo avuto qualche problema importante, da trauma, però insomma il mister saprà cosa fare. Ricordiamo, visto che il mister parla di noi, ricordiamo che lui fa parte della dirigenza dello Scerne, quindi, per non destare preoccupazioni magari da chi segue il Real Treci Miniere e vede, sente il noi. Io ti ripeto, degli amici mi hanno coinvolto, si cerca di dare il contributo al proprio paese come giusto che sia, come meglio si può. Voglio dire, dopo però ci sta... La società è solida, i ragazzi sanno quello che devono fare, ogni tanto ci incontriamo, parliamo, insomma, cerchiamo di mettere a punto quelle che insomma, possono essere delle strategie per cercare di riportare Scerne, ecco, dove credo che debba stare. Penso che la prima categoria per Scerne sia il proprio habitat, debba essere il proprio habitat naturale. No, ripeto, siamo stati anche in eccellenza, ma quello... sono quelle cose che accadono, ma che non è il posto nostro, insomma. Il posto nostro è quello di stare là e prendere, fare la Serie D, altri fare l'eccellenza e lo Scerne fa la prima categoria. Quindi mi auguro che insomma che possa... Allora, siamo in chiusura, ringrazio mister Di Marzio per questa bellissima chiacchierata. Noi è stato un piacere. Ci diamo l'appuntamento a settimana prossima, lunedì, sempre alle ore 20. una piccola anteprima su quello che sarà la nostra puntata. Avremo come ospiti dei rappresentanti del Borgo Santa Maria, che, di cui il mister ha parlato molto bene, quindi c'è stato sicuramente un buon lavoro da parte della dirigenza. Ringrazio di nuovo mister Alfredo Di Marzio, ringrazio anche Fabio Di Febbo, il presidente del Real Trecci Miniere, che ci ha concesso l'onore di parlare con il mister. No, grazie a voi per accendere, insomma, le luci su questo calcio tra virgolette minore. No, quelli che ne fanno parte comunque sono animati da passione, avere ogni tanto, no, anche la possibilità di portare in giro, di far vedere quelli che sono quello che un po' che si è in un certo qual modo, è anche dare visibilità e gratificare le persone, insomma. Ecco, questo penso che il presidente sia molto gratificato da questo. Sai, Fabio è un ragazzo molto taciturno, a volte molto riflessivo, però negli anni ho potuto apprezzare che non c'è stata cosa che lui abbia detto che dopo non si sia verificato, che lui non sia stato capace. Che lui doveva essere qui, però certo, non sono un tipo da radio, quindi sì, questo racchiude il tutto. Tipo di persona, sì, fantastica, persona, sì, fantastica. Sì, il presidente non è tipo da radio, la radio è un po', appartiene un po' agli anni 70, lui è un po' più la televisione, un po' più la televisione, un po' più la televisione, vabbè. Allora, ringrazio finisce così. No, Fabio, per le grandi occasioni, lui da grandi palcoscenici, o notte degli Oscar, lui va a queste cose qua. Insomma, la radio è per i cultori, no? Un po' per, come dicevo prima, per gli artigiani, per quelli che insomma fanno la radio, è come quelli che fanno cinema e il teatro, no? Il teatro è quelli che fanno teatro impegnato, sono impostati. Il cinema è un po' per tutti, così noi la radio siamo quelli che invece insomma. La televisione per Fabio, che è un po' più, no, è puro giusto dirlo, insomma, siamo un po' più tra virgolette chic, dai. Allora, ringrazio di nuovo il mister, ringrazio a voi che ci avete seguiti e buon proseguimento. Grazie a voi, grazie Francesco.